Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, buongiorno e buona domenica. Oggi parliamo delle crop protection, che sono una cosa importantissima nella manifattura e nell'agricoltura e nella vita di tutti noi. Parliamo di Isagro e soprattutto parliamo di nuovi modelli di business nell'era del 4.0. Lo sapete che cosa sono le crop protection? Le crop protection sono dei farmaci, volgarmente detti erbicidi e pesticidi, che mantengono le popolazioni di organismi nocivi al di sotto della soglia di tolleranza, sfruttando i meccanismi naturali di regolazione e usando metodi di difesa accettabili. Queste crop protection sono in grado di aumentare la resa dei terreni coltivati fino al 30%. Le crop hanno un ruolo fondamentale nello sviluppo del mondo. Oggi, con una popolazione di circa 7 miliardi di persone, ci abbiamo in media 2,5 metri quadri a testa di terreni coltivabili. Nel 2025, quando avremo la popolazione di 9 miliardi di persone, il terreno coltivabile a testa scenderà da 2,5 metri quadri a 1,6. Senza crop protection, oppure chiamatele anche erbicidi e pesticidi, miliardi di persone morirebbero di fame. Allora, la Isagro è l'azienda più nota nel settore in Italia. Il suo payoff è Italian Creativity for Plant Health, la creatività italiana al servizio della salute delle piante. È un'azienda che scopre nuove molecole, ma che anche produce, e che si è data un innovativo modello di business fortemente centrato sul discorso del licensing. E modello di business lo vediamo nella seconda parte della trasmissione. Intanto saluto Giorgio Basile, buongiorno, lui è il presidente e amministratore delegato. Buongiorno, grazie per questa opportunità. Come sta andando Isagro e dove sta andando? Isagro da 3 anni ha ripreso un percorso di crescita e di sviluppo. Dico ha ripreso perché non posso rispondere in maniera, mi faccia dire, che abbia un significato, che senza fare un passo indietro e dire che dopo un bellissimo periodo, quello che è seguito alla nascita di questa Isagro nel 93, e dopo l'ingresso in borsa nel 2003, momenti di 10 anni molto belli di sviluppo, siamo entrati in una fase, il 2012-13, che sono stati anni difficili. Ed è molto interessante il perché dalla diagnosi di questo che è nata la terapia che stiamo applicando. Allora, la diagnosi, in termini sinteticissimi, è stato il fatto che, essendo noi caratterizzati da un modello di business di cui siamo orgogliosi, quello di inventare molecole nuove, devo precisare che nel mondo soltanto le società molto grandi partono dall'invenzione della molecola. Mm-hmm. Altre società molto più grandi di noi, e comunque anche non molto, ma certamente più grandi di noi, non partono da prodotti esistenti che diventano generici Avete un bellissimo laboratorio di ricerca a Novara, dove investite il 10% del nostro fatturato, che non è poco. Però adesso la devo interrompere perché avvisi sul traffico e pubblicità. Restate con noi. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea, stiamo parlando con Giorgio Basile di Isagro e il nostro tema sono i nuovi modelli di business nell'era del 4.0. E lui ci parlava di come un'azienda che è media in Italia con circa 160 milioni di euro di fatturato, ma piccola nel mondo, riesce a stare in piedi con un nuovo modello di business che era appunto basata sul licensing. Allora continui a dirci. Stavo dicendo che dopo il primo periodo molto bello è iniziato un periodo difficile. Ma perché difficile? Perché noi, avendo scoperto 2 nuove molecole, abbiamo intrapreso dal 2003-2004 in poi lo sviluppo autonomo da soli di queste. E questo ci ha portato a una situazione paradossale in cui abbiamo speso nettamente più di quello che avremmo potuto spendere, ma contemporaneamente sottoinvestito, cioè investito meno di quello che sarebbe stato necessario. Questa situazione è molto grave. L'abbiamo vissuta, l'abbiamo sofferta e si è concluso con due prodotti, mi faccia dire, che sono stati più degli aborti che dei prodotti. Questo però ci ha insegnato una grande lezione. La lezione è che quando noi inventiamo, poiché ci vogliono risorse ingenti per sviluppare una nuova molecola, noi dobbiamo dare la possibilità ad altri di aggiungersi a noi dando loro la licenza di sfruttare la nostra proprietà intellettuale o su base geografica o su base di combinazioni con altri prodotti, con modalità varie, ma comunque tra di loro complementari, in modo tale che portiamo a casa un ritorno immediato dando in licenza e in seguito, quando questi licenziatari, avendo investito sulla nostra proprietà intellettuale, determinano prodotti nuovi, noi avremo o royalties o margini da prodotto che noi stessi facciamo per loro. Questo meccanismo, per il quale credo che siamo gli unici al mondo ad adottarlo, ma siamo anche gli unici al mondo, certo, piccoli che fanno ricerca di nuove molecole, discovery insomma, scoperta di nuova molecola, ci ha rilanciato dal 2013 e dal 2014 siamo ripartiti e stiamo riniziando un percorso di sviluppo. Allora, in tutto questo contesto voi avete anche innovato dal punto di vista degli strumenti finanziari, vi siete inventati una categoria nuova di azioni, le azioni sviluppo. Ci racconta di cosa si tratta? Sì, questa idea di trovare il modo di arricchire, aumentare i mezzi finanziari ottenibili dal mercato in modo tale da mantenere però la guida imprenditoriale, cioè non perdere il controllo dell'azienda, ma con un patto con i sottoscrittori di questa categoria nuova di azioni, che spiego in un istante, è nata in realtà 9-10 anni fa, quando io ricoprivo dei ruoli in Assolombarda. E l'idea fu molto incoraggiata dall'allora presidente Diana Bracco di Assolombarda, fu capita in Confindustria e poi, lavorando insieme a Mediobanca, a Borsa Italiana e uno studio legale, quello di Erede Pappalardo, che vi siete inventati l'importanza. Questo strumento abbiamo creato, sì, ma è stato un lavoro di 2-3 anni che poi alla fine la Consob ha approvato. Questo strumento è semplicissimo, devo dire con dispiacere non è ancora capito bene dal mercato, perché lo strumento dice: dammi dei soldi, io diventi azionista, non hai il diritto di voto, ma in un'azienda dove il diritto di voto è controllato perché c'è un socio di maggioranza non relativa, assoluta, nel momento in cui quel socio lì perde il controllo per qualunque ragione, tutte le tue azioni diventano azioni ordinarie, cioè con pieno diritto di voto. Quindi, in termini pratici, prima di ogni possibile OPA, quelle azioni sono diventate ordinarie. Se invece il progetto va avanti, ha successo, continua, e l'azionista si ritrova ad avere un extra dividendo ogni volta che c'è un dividendo. Quindi sono come le azioni di risparmio, quindi senza diritto di voto in assemblea e con un extra dividendo qualora ci sia, ma la differenza è che si trasformano automaticamente in azioni ordinarie in caso di OPA. No, in caso prima dell'OPA, in caso di perdita di controllo dal soggetto controllante, che è una condizione per l'emittibilità. Il patto è che cosa servono queste azioni di sviluppo? A permettere che il fondatore o la famiglia del fondatore siano sulla tolda di comando, perché viene ritenuto un valore la presenza del fondatore o della famiglia, facendo in modo che poi di fatto gli azionisti abbiano diritti che per le cose importanti non sono minori di quelli degli altri. Sì, guardi, io devo dire una cosa. Ho 26 anni di storia manageriale in grandi imprese, quindi io capisco perfettamente quel capo di accusa delle imprese che non vogliono, gli imprenditori che non vogliono perdere il controllo. Però devo far presente che la media impresa italiana, se non fosse mantenuto il controllo da parte di chi ce l'ha, sarebbe soltanto una piazza dove altri farebbero acquisizioni di aziende. Noi distruggeremmo questa componente importantissima. Abbiamo appena trasmesso, sempre con lei e con il professor Coltorti, la settimana scorsa, una trasmissione proprio dedicata alla media impresa, e viene fuori che l'Italia, ormai scomparse le grandi imprese, si fonda sulle medie imprese. Quindi il tema è: se dobbiamo mantenere e rafforzare le medie imprese, secondo lei è giusto che sia tutelata la presenza e il comando da parte di chi le ha fondate? Questa è l'idea? A condizione che non divenga elemento di freno per la crescita, ma uno strumento finanziario che permette di allargare la base azionaria e nello stesso tempo, fin tanto che il controllante può mantenere il controllo, garantisce il portare avanti un progetto di sviluppo. Questo è il punto fondamentale. E quando finisce il progetto di sviluppo, che ha senso il cambio. Ma finché c'è un progetto di sviluppo, è un grande peccato che per limitazioni. Ecco, ma lo stesso obiettivo non potrebbe essere raggiunto con dei diritti speciali di voto che sono molto diffusi negli Stati Uniti o in Giappone, perché anche lì ci sono famiglie fondatrici che restano sulla tolda di comando e hanno dei diritti speciali di voto, un diritto di nomina del management, e non c'è bisogno di una categoria speciale di azioni o che abbiano la maggioranza del capitale. Senta, quotato. La risposta è che certamente sì. Io ho avuto un'idea, l'idea è diventata un prodotto, credo che sia un prodotto eccellente, non è che debba essere l'unico prodotto disponibile per rafforzare la struttura patrimoniale, però è importantissimo che noi aiutiamo, incoraggiamo anche culturalmente le imprese ad aprirsi al mercato prima di tutto, ad acquisire il massimo di mezzi possibili, ed è previsto il rapporto 1-1 tra le aziende, tra le azioni con diritto di voto e le azioni senza diritto di voto, trovando modi, qualunque modo va bene, a condizione che si rafforzi il sistema patrimoniale, ma non si castri la capacità progettuale dell'imprenditore. Anche perché proprio la media impresa italiana, tipicamente, come dicevamo il sabato della settimana scorsa insieme a Coltorti, nasce dal fatto che l'imprenditore non solo è leader della sua nicchia o della sua area, ma se l'è proprio inventata lui. Sì, ma sì, certamente, e qui ancora la casistica può essere ampia, ma quello che voglio dire è che è importantissimo che si incoraggi culturalmente, ripeto, l'accesso al mercato degli imprenditori, uno strumento che certo, aiuti. Perché gli imprenditori devono andare in borsa. Ultima domanda, sembra che sia una buona occasione di investimento Isagro, che ci sia molto valore in espresso, perché la capitalizzazione di borsa in questo momento, senza che ci sia un vero motivo, è addirittura inferiore al valore di Libro. Beh, guardi, siccome bisogna sempre essere estremamente onesti, il motivo c'è, sono i risultati storici recenti, non quelli originari. Quindi, da un punto di vista di valutazione squisitamente sulla base dei risultati finanziari, c'è una logica. Ma non è mica andata male, c'era un piccolissimo utile, una piccola. Siete sempre stati intorno al pareggio, sì, però non avete mai avuto debiti. Sì, ma mi faccia dire un'altra cosa. Prego. Il valore patrimoniale dell'azienda è largamente superiore al valore di Libro che abbiamo letto, il quale è oltre due volte la capitalizzazione di borsa. Però, ripeto, intanto il mercato va sempre rispettato. Il mercato valuta sulla base del risultato economico. Io dico, ed è la nostra sfida, e stiamo lavorando per questo, e siamo ripartiti, che noi dobbiamo riportare i risultati a un livello tale da rendere la capitalizzazione dei risultati coerente con la patrimonializzazione. Purtroppo dobbiamo chiudere, salutiamo il dottor Basile, a presto. Grazie, a risentirci con lei e con gli spettatori, gli ascoltatori di Radio 24. Benissimo, oltre che viva le fabbriche, viva l'acciaio e viva l'industria, oggi diciamo anche viva i pesticidi e viva gli erbicidi. Buona domenica!